problema è che noi abbiamo delegato alle regioni tutte le responsabilità dell'agricoltura, quindi abbiamo un ministero dimezzato e abbiamo 27 ministri dell'agricoltura, scusi, 21, che sono i 21 assessori regionali. Questo non può che provocare confusione, quindi bisogna che sistemiamo un pochettino questa organizzazione dell'azienda Italia e forse ci vorrebbero più imprenditori nel governo, perché l'imprenditore è nato per organizzare e la sua funzione è rischiare e organizzare. Queste sono le funzioni dell'imprenditore. Ha in mente un imprenditore in particolare nel governo? Ma guardi, sento parlare molto del nostro Luca di Montezemolo, che stimo, che è una bravissima persona, ma voglio dire, è bravissima anche la nostra Marcegaglia, e ce ne sono tantissimi imprenditori straordinari. Bisogna avere coraggio di prendere, come si dice, il toro per le corna e buttarsi nell'arena, cosa che reputo abbastanza difficile. Quindi lei dice, insomma, sia la Marcegaglia che Montezemolo andrebbero bene nel governo? Ma guardi, sono persone che hanno saputo rischiare in proprio, che sanno organizzare le aziende, hanno dimostrato di saper valorizzare le aziende in cui hanno operato, quindi voglio dire, se li mettiamo a lavorare nell'azienda Italia probabilmente faranno altrettanto bene. Quindi io proprio in questa situazione di disagio degli imprenditori, per questa burocrazia che ci soffoca, abbiamo bisogno di qualcuno che faccia correre l'Italia come sanno correre gli italiani. E lo dice sia come imprenditore che come presidente di banca? Ma io quando parlo sono sempre imprenditore, poi le funzioni magari si sommano, comunque gli imprenditori hanno bisogno di quello che le ho detto, proprio di sburocratizzare l'Italia, lasciateci lavorare in pace, che noi siamo capaci di superare i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, non abbiamo paura di nessuno, però lasciateci correre.